Spazzolino da denti e dentifricio hanno alle spalle una storia lunga e abbastanza chiara. Dai residui dell'antico Egitto sono saltati fuori quei bastoncini da masticare e strofinare che, pur derivando da alberi diversi, sono ancora oggi in uso presso molte popolazioni africane. Dello spazzolino così come lo conosciamo noi, la cui forma sembra continuare fileticamente quella del bastoncino, si ha qualche notizia in Cina verso la fine del 1400. Era composto di seto e di maiali siberiani, pelo forte e duro per animali avvezzi ad una vita grama, e la pasta dentifricia più antica invece di cui si ha notizia è sempre riferibile ai medici egiziani di un paio di migliaia di anni prima di Cristo. La pasta era un composto di polvere di pietra, pomice e aceto. I romani apportarono all'igiene dentaria una novità destinata a non sopravvivere loro. Il loro dentifricio preferito era urina umana, considerata un portento per la sanità degli alveoli e per la brillantezza degli smalti. A quanto riferisce Charles Panaty, sembra che le signore dell'aristocrazia si facessero arrivare urina dal Portogallo perché è più forte e dunque più efficace. La pasta dentifricia che ha finito con il trionfare è per lo più l'insieme di un antisettico ed un astringente, veicolati da qualche polvere fina con l'aggiunto di coloranti o di eventuali edulcoranti. Spesso nel recente passato si vantava anche la presenza salvifica di un qualche elemento più o meno coperto dal segreto industriale, che poi invariabilmente faceva una brutta fine. Uno di questi credo sia stato il Gardol, cui ha legato le proprie sorti a lungo il dentifricio Colgate, che mi consentirete di nominare all'italiana, dentifricio che oggi nei tanti e vistosi manifesti sui muri della città non si affida più ai sortilegi della chimica, ma ad uno slogan più umano e dimesso. Ginnastica quotidiana, dice il manifesto. Ginnastica quotidiana, un manifesto dove su uno sfondo compatto rosso semi anni 50 compaiono due mani, l'una che regge lo spazzolino, l'altra che regge il tubetto del dentifricio. La ginnastica dovrebbe iniziare così e finire in bocca con movimenti decisi e ripetuti. Come vedo il manifesto, tuttavia, qualcosa non mi torna. Penso a quando mi lavo i denti io, prendo il tubetto con la destra e lo spazzolino con la sinistra, spremo adagio il dentifricio sullo spazzolino, metto via, cambio mano e comincio a darmi da fare. In altre parole, compio il gesto più delicato e preciso con la mano forte e lascio il gesto più facile alla mano debole. Nel manifesto della Colgate, invece, lo spazzolino sta a destra e il tubetto è a sinistra. Perché? Ma scartata l'ipotesi che si tratti di una pubblicità per Mancini, scartata per diseconomicità della cosa, perché a quanto assicurano i paleontologi, i Mancini al mondo continuano a diminuire e oggi sono già in un rapporto inferiore all'1:9, sembrerebbe legittimo allora affermare che Mancina era la persona scelta come modello per l'esecuzione dell'operazione da parte dei pubblicitari. Ma riflettendoci, la risposta lascia a desiderare. Implicito sarebbe l'assunto che i pubblicitari non si siano accorti della cosa o che della cosa non gli fregasse niente, il che in un'epoca in cui la comunicazione alle masse viene studiata nei minimi particolari non è credibile. Preferisco considerare il mio avversario come estremamente intelligente piuttosto che estremamente scemo. Torno allora a guardare il manifesto e mi rendo conto di un particolare che, pur attenendo a tutt'altra natura di questioni, sembra dirimere sufficientemente la faccenda. Il tubetto nella mano sinistra è tenuto in modo che si legga chiaramente la scritta della marca bene in grande. Questa scritta sta dunque nel campo percettivo della destra di chi guarda. Il marchio del prodotto, marchio in quanto marchio e non in quanto scritta sul tubetto, è invece posto in basso a sinistra. così come campeggiano due mani, una da una parte e l'altra dall'altra, campeggiano due scritte bilanciandosi. È l'amor della simmetria allora che ha spinto la composizione del manifesto, nell'antica e diffusa consapevolezza che i nostri giudizi estetici si facciano positivi, allorché la percezione è facilitata nel costruirsi un campo visivo d'esperienza ove gli elementi siano equamente distribuiti e dove la ripetizione ne risulti arricchita. Come l'ape bottinatrice che si posa più volentieri su fiori con petali ordinati e commisurati, disdegnando quelli ai quali i petali sono stati tagliuzzati a casaccio, no? Se la scritta sta da una parte, la mano con tubetto sta dall'altra, a prescindere dalla lateralizzazione del soggetto che è servito da modello. Con il che la spiegazione sembrerebbe soddisfacente. Se non risultasse subito evidente che neppure questa è una spiegazione. Se il tubetto fosse stato nella mano destra, la scritta avrebbe potuto essere messa dall'altra parte, ottenendo pari simmetria. Allora siamo al punto di prima. La spiegazione è un'altra ancora. Allora, la riguardo bene e penso che noi leggiamo da sinistra a destra e il tubetto è in quella mano perché per essere letto il nome che vi è scritto sopra non può stare nell'altra. A differenza che nel vetril, il tubetto del vetril, Colgate è scritto a partire dal foro di uscita del dentifricio e si estende verso il fondo del tubetto, mentre nel vetril parte dal fondo per andare verso la cima. Se dunque fosse spremuto con la mano destra, sarebbe offerto alla lettura da destra verso sinistra, trasgredendo i canoni di lettura in uso e diminuendo quindi drasticamente il proprio tasso di percepibilità. Sarà ginnastica quotidiana, ma fasulla quel tanto perché risponde alle esigenze ideologiche e mercantili di chi ne impone la pratica. Una spiegazione altrettanto soddisfacente può essere invece tentata anche a proposito della pipì portoghese. Perché pipì e soprattutto perché portoghese? Chimica alla mano, allora l'urina contiene ammoniaca, le cui molecole, non a caso, sono utilizzate in tante paste dentifrice più idonee ai palati moderni, le cui molecole risultano detergenti. Ecco, ma fin qui è una parte di risposta. Ma qual era l'arte segreta dei portoghesi in grazia della quale la loro pipì emergeva fra tutte le altre pipì dell'impero romano? Niente. Era assolutamente identica a quella di tutti gli altri. Soltanto che, venendo via terra, da molto lontano, prima di arrivare a Roma si era fortificata come un barolo dopo 15 anni. Per ottenere il medesimo portento, le esigenti matrone romane avrebbero potuto prodursela in loco, metterla in botti e far fare alle botti, quel migliaio di volte, il giro della circonvallazione.